I rumori di fondo che chiudono questo splendido lavoro di Vertone, in arte Vertone, in realtà è Black Edwards, compositore americano, compositore sperimentale, estremamente raffinato nei lavori che ha iniziato a produrre a livello più globale dal 2003. Prima aveva fatto dei piccoli lavori autoprodotti in cassetta, e quest'autore rientra in pieno nel percorso di stasera, che è dedicato, e questa è la seconda parte, l'abbiamo voluta iniziare proprio con il brano di apertura per darvi, diciamo, un'onda sonora importante e nuova. Trasmissione questa di 451 frammenti sonori, e ovviamente siete sempre sintonizzati su Radio Città del Capo. Questa è la seconda parte della puntata di stasera, dedicata ad atmosfere, musiche per ambienti reali o immaginari. Abbiamo fatto il nostro primo passo all'interno della prima parte con un percorso che si è dipanato attraverso Egisto Macchi, Ennio Morricone, Vittorio Gelmetti, Scanner e Death Ambient, per poi adesso aprire appunto con Vertone questo nostro percorso sonoro. L'album è Orchid Collider, uscito nel 2005, e Black Edwards lavora praticamente su una sonorizzazione connessa alle stagioni proprio naturali. Adesso ci stiamo addentrando in maniera piuttosto pesante, ad esempio nell'autunno, che è un mezzo autunno, un mezzo inverno, ma non si capisce ancora bene. Stagioni che vengono rappresentate attraverso appunto questa sonorizzazione, che nello stesso tempo lo stesso Black Edwards lavora su una sorta di parallelismo, oltre alle stagioni ovviamente naturali, quelle che ci viviamo annualmente, c'è una trasposizione anche di connessa a un discorso emotivo, dunque una sorta di stagioni anche dell'anima. Ti piace questa cosa, la stagione dell'anima? Un po' Marzullo. Sì, stagione dell'anima. Oppure quell'altro ancora più divertente, che non lo vedo più in giro, quello che faceva quelle puntate assurde, che oltretutto anche Guzzanti faceva la parodia. Non era anime, una roba sì, del era genere. Anima. Quell'altro Dio, personaggio assurdo. Michele La Porta, come secondo me sta male, Porta, perché non lo si vede più in giro. Ma no, da qualche parte l'avranno infilato. Le stagioni dell'anima. Tipo alle 6, tra le 5 e le 6. Sei tutto schizzato, che non si capisce. Comunque, insomma, abbiamo aperto con questo autore piuttosto nuovo, insomma, uscito dagli anni zero, che riesce a coniugare una certa impronta, una certa predisposizione connessa a certe musiche droniche, frequenziali, con delle aperture invece ambientali, e alcune parti anche dove gioca con un certo concretismo. Abbiamo assaggiato soltanto un piccolo frammento alla fine del brano che abbiamo mandato in onda poc'anzi. E dopo Vertonen, Black Edwards in arte Vertonen, andiamo a scoprire di nuovo, facciamo un salto storico, un'altra autrice, in questo caso del periodo d'oro di tanti autori italiani che abbiamo già affrontato in parte nella prima sezione di 451 di stasera. Sì, tornando all'Italia decisamente creativa dei 60-70, sicuramente un disco per sonorizzazioni come Società Malata. Ti piace questo titolo? Società Malata, sì. Appena ho visto, ho detto, questo è il titolo dell'Iseo, Società Malata di Daniela Casa. Si sa veramente poco dell'autrice. C'erano autori appunto famosi o comunque musicisti riconosciuti come appunto Macchi, Morricone, neanche a dirlo, Gelmetti, però c'erano appunto anche altri che si sono cimentati con musiche decisamente sperimentali e che sono rimasti così in una sorta di dimenticatoio, che poi per fortuna, per anche vie accidentali, prima all'inizio della trasmissione dicevamo quasi il filtro della lounge music ripresa negli anni 90, ha fatto anche tornare appunto certe situazioni, come appunto quella della della sonorizzazione italiana, quindi non soltanto le musiche per il cinema, ma anche quelle per la televisione, per musei, come dicevamo all'inizio trasmissione, e per situazioni di vario tipo, musica per la musica, prima parlando insomma di Gelmetti e il collegamento con il suo figlio musicale, diciamo così, insomma fatecela passare, Scan e Robin Rimbaud. E con Daniela Casa si va verso quell'immaginario molto forte negli anni 70, molto anche cupo, quello della visione sociale che attraversava vari autori, ma che poi di fatto insomma era anche specchio di una società decisamente in crisi, anche nel senso buono se non ottimo del termine, proprio quella crisi che si vuole come momento di mutazione, di trasformazione, di possibilità anche data appunto ad un passaggio, quindi crisi come critica, come qualcosa che comunque viene appunto messo in discussione. Società malata di Daniela Casa non è altro che un ribaltamento poi creativo di quello che invece insomma poteva essere un mondo, e lo è stato anche per molti versi, sia a livello autoriale ma anche a livello di immaginario politico, sociale che attraversava il paese proprio quegli anni, quei anni che per tanti versi adesso sono più che altro rimossi, neanche forse più di piombo, ma forse finalmente con la pace di qualcheduno, veramente sotterrati, non è vero, tornano e soprattutto insomma, come dire, una sorta di filo rosso si riscontra, appunto la criticità, il saper sperimentare, il volerlo fare con anche un discorso che appunto ci porta dentro i meandri dell'avanguardia, ma non solo, anche appunto quell'avanguardia che diventava popular, che appunto si trasformava in qualcosa anche tra virgolette di massa, la famosa avanguardia massa, e quindi anche il discorso un po' di Morricone, Gelmetti, di autori che insomma si sono anche, di Umiliani, che si sono poi anche cimentati con opere sicuramente più vicine insomma al popolo, potremmo dire anche così, però chiamiamo il pop, che forse il discorso insomma è lungo sulla differenza tra popolare e popular. In effetti ci sono due gradazioni diverse, uno mediterraneo italiana e l'altro invece anglosassone, quindi con annessi e connessi. Ma non perdiamoci in questo discorso, anche se è pertinente. In effetti Società malata va proprio a indagare quella società degli anni 70 vista in maniera critica e anche decisamente creativa da Daniela Casa. Thank you. Beh, sembra quasi di sentire musica industrial ante litteram, soprattutto con questo ultimo frammento di Giuliano Sorgini da Elettroformule. Beh, uno dei temi a cui accennavamo prima, che ha colpito sicuramente molti sonorizzatori degli anni 60-70, è stato sicuramente quello del cosmo, quindi della scienza, ma anche dello sconosciuto, che porta appunto il viaggio cosmico, inteso sia come appunto rapporto con la tecnologia, con il progresso tecnologico insito, insomma, nella ricerca spaziale, ma anche appunto quel viaggio cosmico che non a caso, insomma, porterà anche molto lontane le musiche dei Corrieri Cosmici tedeschi, ma non solo. anche buona parte, insomma, dell'avanguardia, molto collegata a Karlheinz Stockhausen, un altro che è sempre stato folgorato dalle immagini cosmiche fortemente, insomma, tante opere sono attraversate proprio da questo anelito cosmico del grande compositore tedesco. Anche Sorgini, anche egli, come Daniela Casa, un personaggio misconosciuto, legato a film poi recuperati, che appunto sono considerati B-movie, anche piuttosto particolari, con titoli anche piuttosto assurdi, noi che insomma ci dilettiamo andare anche a ritrovare certa roba, mai sentiti sti titoli, Non profanare il sonno dei morti, forse è la cosa più famosa, magari andremo insomma film, a ritrovare film abbastanza strani. Sì, tra l'altro tu ti sei messo all'azione con gli Etruschi, spero. Quindi, sì, l'Etrusco sta andando avanti, è molto lento, ma l'Etrusco sta arrivando. Bene, poi magari porteremo anche la colonna sonora dell'Etrusco. L'Etrusco uccide ancora, colpisce ancora. E l'Etrusco contro tutti, si colpisce ancora. Star Wars. Allora, a parte gli scherzi, comunque poi veramente a parte gli scherzi, perché sono personaggi che appunto sono legati anche a film insomma molto latere di tutto quanto, ma con musicalità, come stiamo sentendo ancora in piccola parte in sottofondo, che veramente l'ammiscono insomma linguaggi d'avanguardia decisamente interessanti per uso delle elettroniche sgraziate, oppure come abbiamo sentito prima nella Società malata di Daniela Casa, anche con queste tonalità decisamente melodiche, quasi bucoliche per alcuni aspetti. Certo è una bucolica più spaziale che terrestre, ma tant'è che insomma la fantasia colpiva molto questi autori, che riuscivano poi di fatto insomma a sperimentare con tematiche decisamente evocative, e anche musica che appunto riuscivano poi d'altronde a sonorizzare queste ambienti poi immaginati di fatto, perché magari non vedevano il documentario magari non veniva neanche realizzato, molte volte non si sapeva neanche perché cosa bene fossero commissionate quelle musiche, si parlava di atmosfere, e questi autori appunto compositori lavoravano appunto avendo un'idea molto vaga, ma appunto per questo molto interessante e molto libera, di un'atmosfera. E dopo questa splendida dissertazione di Max rispetto a questo tipo di universo, di mondo che ci ha sempre comunque colpito e affascinato, e stiamo scoprendo anche cose che non pensavamo ci fossero, molti di questi lavori che stasera stiamo mandando in onda, e sono state delle scoperte abbastanza sorprendenti. C'è tutto un universo legato appunto a questa scena musicale, a questi grandi autori, che ancora forse non è stata completamente scavata e conosciuta anche in gran parte da molte radio, da molti conoscitori della materia. Noi speriamo di continuare appunto a cercare questi materiali, che sono sicuramente interessanti. Li sentiamo ancora in sottofondo, splendidi lavori anche con gli archi, che forse sono entrati in maniera un po' inquietante, no? Un po' minacciosa dentro il tuo discorso. E da questi grandi autori che abbiamo ascoltato fino a questo momento, l'ultimo è Giuliano Sorgini, andiamo a trovare invece un autore che è passato attraverso 451 frammenti sonori diverse volte, un grande compositore di musica contemporanea, Alvin Lucier, dall'album Vespers and Other Early Works, dove l'autore, nell'opera del 1968, in un brano che abbiamo selezionato, Chambers, Camere, e praticamente lavora su una sonorizzazione di voci, di cori, di voci che vengono portati a un eco eccessivo per creare un suono lontanissimo che però in parte sembra anche vicino, dunque un effetto molto particolare. E Lucier non era, diciamo, era avvezzo a questo tipo di sperimentazioni, spesso lavorava appunto su sonorizzazioni sia sull'ambiente, sul suono, sulla propagazione spaziale del suono, e anche qui fa lo stesso tipo di lavoro in maniera assolutamente interessante. ce l'andiamo ad ascoltare. E dunque il brano è Chambers di Vespers and Other Early Works. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta dopo aver mixato lo splendido lavoro di Elvin Lucier, The Vespers and Other Early Works, lavoro del 1968. Abbiamo subito coniugato e collegato un altro lavoro di sonorizzazione differente rispetto al lavoro di sonorizzazione particolarissimo, quasi ridondante, a ricreare un effetto spaziale sonoro dentro varie stanze che venivano modulate, registrate per sovraincidere sopra ancora in maniera assolutamente geniale da parte di Lucier. In questo caso troviamo un altro grande compositore, uno dei più importanti compositori della scena minimalista, John Gibson, da questa opera Thirties, uscita e realizzata nel 1970. Abbiamo ascoltato adesso l'unica realizzazione live del 1972 di questa opera, con dei musicisti che insomma fanno accapponare la pelle. Oltre a John Gibson troviamo addirittura Gavin Bryars, Michael Parsons, Christopher Hobbs, Devin Rosenborg, Arthur Woodbury, Kurt Bischoff e il grande Peter Sandler e Eva Scalla. E cos'è, oltre alla formazione sicuramente che colpisce, la cosa interessante da sottolineare? Questa opera era stata realizzata nel 70 per sonorizzare un videotape, parliamo di ben 40 anni fa, e i videotape insomma erano agli albori per certi sì. versi. Ed è un'opera, questa uscita appunto del 70, adesso ve la vado a cercare, è un videotape intitolato Interval 30.9A, e appunto era una delle prime anche realizzazioni praticamente come visual graphics e utilizzando anche il computer, dunque una sorta di videotape di animazione attraverso anche l'uso del computer. Dunque parliamo veramente di sperimentazione ante litteram rispetto all'utilizzazione che poi sarà piuttosto massiccia e vastissima un bel po' di anni dopo, attraverso appunto l'animazione al computer. E questa appunto era una sonorizzazione di questa opera che adesso abbiamo ascoltato nell'unica realizzazione live del 1972. Da John Gibson rientriamo nel discorso italiano, la peculiarità e l'originalità rivoluzionaria anche delle musiche di questi autori che abbiamo ascoltato stasera, con un altro autore importante di questa scena. Sì, autore conosciuto soprattutto per il suo fischio, quindi anche vicino a un modo di utilizzare il suono, un suono più che popolare, qua si va veramente quasi sull'ancestrale, proprio il fischio di Alessandro Alessandroni e celeberrimo per la collaborazione con Morricone nei western di Sergio Leone, e quello è proprio quello lì, quello che qualcheduno sicuramente insomma sarà saltato dalla sedia immediatamente ricordandosi quante anche emozioni riportano insomma questa immagine forte di un suono poi che appunto è veramente quasi ancestrale come quello del fischio. Ma Alessandroni, oltre che poi essere un ottimo compositore, qua lo sentiremo insomma anche in veste piuttosto sperimentale e anche per certi versi quasi tecnoide, adesso comunque andremo appunto ad assaporare questo Alessandroni, che tra l'altro insomma non ha fischiato soltanto per Morricone, ha fischiato anche in Mananana ad esempio di Piero Umiliani, famosissimo anche quello, celeberrimo pezzo di pop conosciuto in tutto il mondo, e uno dei primi suonatori e anche di conoscitori della cultura musicale indiana, uno dei primi suonatori di sitar anche proprio negli anni 60, quindi prima che scoppiasse insomma anche la tendenza psichedelica di andare a cercare appunto la raga music di Ravi Shankar, dei vari suonatori di sitar, e con Alessandroni andiamo anche in quel mondo particolare appunto, che è quel mondo all'atere che abbiamo attraversato sicuramente con Sorgini, con Daniela Casa, piuttosto che con Egisto Macchi, con Morricone, che, con Gelmetti, insomma, personaggi sicuramente molto più conosciuti. E, con Alessandroni, appunto, come compositore si va veramente a trovare, insomma, una sorta di viatico musicale del tutto originale, qua soprattutto in una sonorizzazione per industria meccanica e per quindi rotelle, aggeggi, meccanismi che si vanno appunto a immaginare sonoricamente, e lo fa appunto in maniera piuttosto curiosa, cosmicheggiante in alcuni punti, e a questo punto anche techno, perché insomma ricordiamoci che connubio tra ritmica, elettro e cosmo darà insomma avvio alla techno di Detroit. Forse ci stiamo allontanando troppo, ma vi assicuro che non è così. Appena sentirete il pezzo che appunto partirà in questo momento di Alessandroni, capirete anche perché stiamo facendo questi riferimenti. Alessandro Alessandroni, quindi. Thank you. e siamo rientrati in diretta. Abbiamo ascoltato, collegato al lavoro di Alessandroni, anche un lavoro di un altro italiano, però recente, non che sia morto Alessandroni, okay, però un autore più giovane. Si tratta di Andrea Belfi, oltretutto, da quel che mi dice il buon Max, roba di Bologna, per cui si ha vari contatti, a Bologna, insieme a Machine Fabric. L'album è Pulses and Places del 2009, e il lavoro che abbiamo ascoltato in parte è fondamentalmente una sonorizzazione di ambienti che lo stesso Belfi spesso realizza, oltre allo stesso Machine Fabric, che è un autore, un compositore e musicista olandese, se non vado errato, sì, olandese, perfetto. E la cosa interessante è che Belfi, oltretutto, questo è stato veramente casuale, però divertente notare queste particolarità, lavora con dei fischi, che vengono definiti in inglese, che probabilmente sono legati a stridi e vari effetti sonori di oggetti o comunque anche di possibili chitarre, però forse che si aggancia percussioni o però la definizione è fischio, comunque, dunque effetti proprio stridenti, fischianti, ecco, sì, fischianti, che si aggancia perfettamente al discorso che abbiamo fatto poc'anzi di Alessandro Alessandroni, che appunto è famoso per il fischio, lo storico fischio nei film di Leone. Sei contento? Musicati da? Da Umiliani. Bello, questa è buona. Che frescone che sei. Ti piace essere così, eh? Vabbè, comunque il nostro percorso stanotte di apertura della nuova stagione speriamo sia stato stimolante, per noi lo è stato, ma che abbia insomma stimolato qualsiasi ecco, sapevo che usciva la battuta, qualsiasi effetto insomma, no, no, che bene, stimolo chiaramente mentale, intellettuale e psichico anche, perché no, no, psicofisico, biologico, psicosomatico, psicosomatico. No, non intendevo quello. Vedi che lo intendi tu poi. Va bene, nel frattempo tossisce il mio compagno di viaggio. Però non è andato in diretta, vedi che dopo 10 anni qualcosa tra si poco impara. Chissà che succede. Tra poco escono fuori degli animaletti dalla mia gola. Degli animaletti, sta invecchiando male. Ma lo so, però. Però è una bellissima barba nera ancora. Ma ecco, barba nera. Barba nera. Ti occupi di oroscopi anche. È vero che c'è l'oroscopo Barbavane Barba, ma non nera. So, magari non esiste più, ma credo che ci sia ancora, forse Barbarossa, Barbarò, quella è un'altra storia. Vabbè, niente, a questo punto proprio niente. Vi lasciamo nel nulla, che d'altronde a quest'ora tutti stanno morendo, sono già morti o stanno dormendo perché devono andare a lavorare, e anche quelli che non lavorano, e sono tanti adesso, devono andare a letto comunque. Però devono comunque andare a letto presto, svegliarsi presto, non si sa per fare cosa, però si alzano perché sennò si sentono male. Beh, perché ti senti poi un po' troppo disoccupato, così un po' di soggetti che si alzavano alle 8, ma devo dire, alle 10 tornavano a dormire, però probabilmente è una malattia sociale, insomma, anche quello. Ti senti meno disoccupato, così dai un senso, no? Di, vabbè, però mi sono impegnato, mi sono alzato ad alzarmi, sono 2 ore e poi sono tornato a dormire, però è una cosa interessante. Vabbè, cari bolognesi o quelli che sono stati adottati da questa bella città. Salutiamo comunque anche coloro che ci ascoltano di mattina tramite il blog. Proprio uno si sveglia, ecco, forse si svegliano presto per sentire il blog. Ah, addirittura. 451 da blog. Sicuro. Ricordiamo il blog. .org. No, .org, basta. Una roba per ricordare. Su Google e digitate .org. Qualcosa esce. Sì, vabbè, non diciamo che. Vabbè. Buonanotte. Buonanotte, a domenica prossima. Mi raccomando, non prendete troppo freddo come ho fatto io. Sennò poi viene la tosse. Ciao.